La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ho provato una paura terribile. Proprio la... Non la sensazione, la realtà veramente di trovarsi in quelle scene che tu vedi nei film, che non ti sembrano reali finché non ti accadono. Ed è una cosa terribile. Paura è l'unica parola che può usare Lucia Annibali per ricordare quella sera d'aprile in cui i due uomini, a viso coperto, la aggredirono davanti a casa sua a Pesaro, lanciandole sul volto dell'acido che la sfigurò quasi sino ad ucciderla. Questa che vi raccontiamo è dunque la prima volta di Lucia e l'inizio è proprio purtroppo questo. Certe storie nascono e prendono vita da fragilità e mancanze che si hanno dentro di sé, e sono queste fragilità che ci proiettano verso persone distruttive. È importante lavorare su se stessi, essere in sintonia e presenti a se stessi. Gli altri ci fanno del male, ma siamo anche noi che glielo permettiamo. In parte la responsabilità è anche nostra, ma il passo ancora più difficile è la decisione di rinunciare all'amore sbagliato nei confronti di quella persona. Racconta così Lucia Annibali nel suo nuovo libro Io ci sono, presentato al Salone Off 365 a Milano. È il 16 aprile 2013, sono le 21:35. La Annibali sta tornando a casa, vive da sola, ha 35 anni. Due uomini la avvicinano e le gettano dell'acido sul volto. Il mandante, si scoprirà poi, è il suo ex fidanzato, anch'egli avvocato, coetaneo. Quella che vi raccontiamo è una storia terribile, una prima volta terribile, così come raccontò Lucarelli durante la puntata della 13ª ora e che non saprei definire meglio. Ci sono storie che fanno veramente paura, perché ci fanno capire che c'è ancora qualcosa di irrisolto, di primitivo e di bestiale, un mostro preistorico, ma non là fuori, nella foresta, qui con noi, dentro di noi. È capace della violenza più feroce, ma soprattutto più assurda e più stupida, più incomprensibile. E proprio per questo non riusciamo ad accorgercene come un rumore sordo a cui finisci per abituarti finché non è troppo tardi. Questa è una storia così, una storia che fa paura. Ma per fortuna non è soltanto questo, è anche una storia di riscatto e di forza. La forza di una giovane donna che si chiama Lucia. E alla fine, all'inizio no, ma alla fine sì, è anche una storia d'amore. Ma soltanto alla fine, perché all'inizio è ancora una storia che fa paura. Quella di Lucia Annibali è una storia che ha colpito tutti e che ha da subito creato una rete di solidarietà incredibile. Secondo me il libro in realtà ha più lettori, ha tanti lettori, perché parla sicuramente alle donne no, che vittime di violenze, di rapporti così distruttivi, ma parla anche agli ustionati, innanzitutto come me, parla alle persone che devono affrontare per esempio la malattia, può parlare anche dei medici per fargli capire quanto è importante il rapporto con il paziente, quanto può essere curativo. E poi penso in generale possa parlare un po' a tutti, perché alla fine è un libro positivo che trasmette comunque molta speranza e che questo concetto che la forza di volontà può farti arrivare ovunque tu vuoi. Perché poi è questo quello che lei veramente ha trasmesso a tutti quanti noi, no? È proprio questa forza. Da dove arriva questa forza? Lo so che gliel'hanno già fatta in 100.000 questa domanda, però è proprio è misteriosamente forte, insomma, questa spinta che penso lei ha. Che racchiuda anche una natura spirituale, penso, questa forza, no? Quindi che arrivi anche da qualcosa di più grande di noi, ma poi viene da me, dal desiderio proprio di riconquistare, no? La mia vita, quindi il mio attaccamento alla vita, decidere di continuare a vivere nonostante questa grandissima ferita che mi aveva distrutto completamente, e dalle persone che mi hanno voluto bene, che mi vogliono bene, da chi mi ha curato, che mi ha dato questa speranza di poter tornare a una vita normale, quindi da tutto questo. Forse la stessa forza che l'ha fatta aggredire in questo modo, nel senso che a volte la forza dà fastidio, è una cosa che non si può controllare, una donna forte soprattutto. Può essere. Sì, perché sì, può essere, perché io penso che alla fine il pericolo concreto arrivi proprio nel momento in cui si decide di dire basta, e il basta è un basta reale, perché tante volte le donne dicono basta, no? però deve essere nel cervello e maturato anche nel cuore, questo basta. Ed è proprio lì che probabilmente si diventa più, ancora più pride, no, di quanto sia stato finora, perché c'è questa perdita di controllo che sicuramente fa scatenare l'aggressività che è insita in queste persone. E lei soprattutto non ha mai smesso di parlare, che è anche un'altra cosa che viene, soprattutto oggi nella giornata contro la violenza sulle donne, si dice proprio parlate, denunciate, andate avanti, non abbiate vergogna né paura, no, delle cose. Questo lei è un messaggio che ha portato, probabilmente di cambiamenti ne sono stati fatti anche grazie alla sua storia di perseveranza nel voler ottenere giustizia anche. Sì. Soprattutto è come nel diritto ad avere giustizia, perché è un diritto la giustizia, secondo me, e soprattutto per le vittime, cioè hanno diritto di avere una giustizia giusta. Io non lo so, continuo più che altro a condividere la mia esperienza, a dire più che altro quello che penso, quello che sento. Il libro è stato un modo per far conoscere veramente quello che mi era successo, per spiegare anche come siamo arrivati a quella sera, perché, ma soprattutto tutto quello che c'è stato dopo. Quindi non è solo la violenza, anzi forse la violenza rimane in un angolino in questa storia, perché poi da lì parte tutta una vita fatta di cose belle, di persone belle, buone, che ti aiutano, che sono affettuose. E penso che dare questi messaggi positivi sia sempre più utile piuttosto che parlare di quanto può essere brutto il mondo e quanto possono essere cattive le persone. Quindi sempre dare una speranza, che è poi quella che io coltivo tutti i giorni, che mi serve anche per, insomma, riprendermi il meglio possibile. Anche perché lei ha sostenuto tantissime operazioni, insomma anche un percorso faticoso, proprio sì, fisicamente. Sì, che ancora non sono finite naturalmente, perché non sappiamo ancora quante ne serviranno, quindi c'è ancora da fare. E cosa fa però? Lei continua ad andare in giro a parlare nelle scuole, va incontro ad altre donne? Appunto abbiamo iniziato con la promozione del libro, abbiamo iniziato proprio a parlare, a presentarlo nelle scuole. E sono state già diverse occasioni e devo dire che al di là della vendita in sé per sé del libro è proprio diventato uno strumento di educazione, secondo me, e quindi di portare questi esempi concreti per far riflettere, anche se fosse solo 5 minuti, no, nelle scuole i ragazzi, quindi è diventato un bello strumento, delle belle occasioni per parlare ai giovani. Questo, secondo me, forse manca questa cosa. Magari noi nel nostro piccolo riusciamo invece a fare qualcosa anche lì. La prima volta. La prima volta. Appesero il processo con rito abbreviato al presunto mandante dell'aggressione a Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata con l'acido da due sicari. Chiara Paduano. L'avvocato è l'imputato. Verrà giudicato fra poche ore Luca Varani, accusato di essere il mandante, due cittadini albanesi gli esecutori, dell'agguato con l'acido che ha deturpato l'avvocatessa e sua ex fidanzata Lucia Annibali. È tutto pronto al tribunale di Pesaro ed è pronta anche Lucia, sarà presente in aula più forte e coraggiosa che mai, perché quell'uomo non le fa più paura. E ci saranno anche Rubin Talaban e Altistin Precetai, i due albanesi che la sera del 16 aprile dello scorso anno erano incappucciati quando le tirarono in faccia l'acido per poi scappare, lasciando sul suo viso per sempre il segno di una violenza inspiegabile, di un amore malato, di un amore che ha detto non può essere sinonimo di dolore. Il tribunale di Pesaro chiuderà già sabato la vicenda con un processo da celebrare con rito abbreviato allo stato degli atti. Nessuna concessione agli imputati, nessun accertamento, come deciso dal giudice il 9 dicembre scorso. Lucia Annibali sentirà il pubblico ministero ripercorrere quegli attimi tremendi, rivedrà le fotografie del suo viso che si scioglieva e vedrà di nuovo in faccia quell'uomo che un tempo aveva amato teneramente e che oggi rischia 16 anni di galera. Così raccontava il TG1. Da quell'udienza Lucia Annibali uscirà fiera della pena a 20 anni di reclusione per il suo ex compagno colpevole di un delitto tanto efferato. Sono soddisfatta, disse la Annibali emozionata in conferenza stampa. Ma il mio incubo in realtà è finito un anno fa. E quindi io vado avanti come sempre con la mia vita, con me stessa, la mia famiglia, i miei amici. Io vado avanti per la mia strada. Come dico, alla fine è l'importante che io stia bene, l'importante è il mio benessere, mio e della mia famiglia. E quindi il resto è un premio giusto al lavoro che è stato fatto. È giusto che chi ha commesso questo scempio sia punito nel modo in cui la giustizia e il giudice ha ritenuto adeguato. Per 7 volte Lucia è stata operata e ancora non è finita. Il suo viso non tornerà più come prima, eppure, ed è lei a dirlo, il volto che ha oggi lo ama tantissimo, perché è una conquista fatta giorno per giorno, operazione dopo operazione, sostenuta da tante donne che a sua volta lei con la sua storia ha aiutato. Dal buio più profondo di una violenza tanto atroce emerge questa storia bellissima, la storia di Lucia Annibali, il simbolo, come dirà Laura Boldrini, della resilienza. Secondo me, per come la vedo io, Lucia è diventata un'icona della resilienza, cioè Lucia ha saputo trasformare questo dolore, questa sofferenza in qualcosa di positivo per tante altre donne. Lei non si nasconde, lei ha l'orgoglio di essere quello che è e mette a disposizione la sua esperienza per riuscire a convincere tante altre donne a uscire dalla violenza, cioè a smascherare quella violenza che c'è e che è invece presentata come amore. Se è amore, non può essere violenza. E Lucia è la testimonial più efficace di questo messaggio. Avvocato, lei ha detto mi sento più viva, però sì, molte donne quella forza che lei oggi ha detto che è riuscita a ritrovare non riescono a trovarla. Lo so, infatti io spero che questa mia esperienza possa aiutarle in qualche modo a, no, a venire fuori e trovare il coraggio, perché ci vuole coraggio per ribellarsi, no, al destino che magari è avverso, quindi a cercare di lottare per la loro felicità, una realizzazione personale, che è una la cosa più importante che ci può essere nella vita. Molte mi scrivono, mi hanno scritto, non solo donne ma anche altri ustionati per esempio, ma anche ecco, persone che hanno avuto degli incidenti, che devono sottoporsi a tante operazioni. Per esempio mi capita spesso che mi scrivano persone che sono loro state curate a Parma, oppure dopo aver letto la mia storia hanno deciso di farsi curare anche loro a Parma. Quindi alla fine proprio un modo per aiutare non solo una categoria, no? Perché si parla di me come il simbolo della violenza contro le donne, ma in realtà c'è molto altro, c'è tanto altro, c'è anche questo aspetto medico molto importante, quindi è appunto un'opportunità per aiutare davvero tanti tipi di persone, cioè, ognuno trova probabilmente nella mia esperienza qualcosa di cui ha bisogno per la propria vita, no? Senza presunzione questo, però veramente vedo che succede, è una bellissima cosa questa. Forse anche il fatto che lei ha avuto anche proprio la forza di raccontare tutto questo porta gli altri ad avere fiducia di poter essere ascoltati, perché a volte penso di sì. Comunque gli aiuta sì a decidere di cambiare magari delle cose nella loro vita. Per esempio mi hanno scritto anche delle donne che hanno lasciato i loro compagni dopo aver conosciuto la mia storia, quindi alla fine insomma è un modo per, no? Così sì. Io decido ma anche gli altri decidono poi per loro stessi, è molto, molto bella questa cosa veramente. Lei ha creato in qualche modo un circolo virtuoso, come si dice. Ecco, poi le volevo dire quest'altra cosa. Io mi ricordo quando appunto il mandante della sua aggressione fu giudicato dalla legge in maniera esemplare, no? Ecco, mi ricordo ancora la conferenza stampa in cui c'era moltissima emozione, lei stessa cercava di trattenerla, ma c'era emozione anche tra i giornalisti. Ecco, cosa ha provato quel giorno? Quel giorno è stata una soddisfazione, ecco, sicuramente, perché erano stati lunghi mesi di sacrificio da parte mia, ma anche da parte della mia famiglia, di chi ha lavorato per me giorno e notte, i carabinieri, la procura, tutti quanti. Quindi io l'ho vissuta come una giusta ricompensa per noi tutti, perché alla fine siamo diventati veramente una grande famiglia. Abbiamo condiviso insieme questo dolore, ma anche poi la gioia di vedere, no, che io sempre meglio, di vedere che tutto insomma è andato bene fino adesso, anche con il mio avvocato. Veramente è stata una gioia collettiva, insomma. E quindi eravamo contenti. Certo è una cosa molto triste in sé, no? Pensare che una persona abbia deciso di distruggere così la sua vita alla fine, no? Perché chi ha fatto questo in realtà ha distrutto la sua vita. E questa è una cosa che suscita anche un po' di pena, no? Quindi rimane una tristezza, però è giusto che ci sia questa riparazione, in qualche modo, da parte della legge, giusto questo. Lei non porta rancore, comunque, non è, nelle sue parole non c'è odio rispetto a quello. No, non c'è l'odio, perché fondamentalmente non serve niente. La mia vita non mi aiuta a guarire, quindi mi imbruttirebbe soltanto e non mi permetterebbe neanche di fare invece del bene, no? Che mi sembra una cosa più intelligente, anche più costruttiva. Certo. L'ultima domanda che le faccio, poi la lascio andare, so che è anche abbastanza stanca perché sta sostenendo dei... No, le volevo chiedere che cosa vuole fare ora, cioè quali sono gli step, i progetti futuri? I progetti rimangono sempre naturalmente primari, quelli di proseguire con le cure, con gli interventi per recuperare al massimo quello che si può recuperare, continuare a seguire il libro e vedere quali opportunità così regala a me e anche ad altre persone, cercare un po' di riflettere sul futuro, sul da farsi. Questo è un altro obiettivo che bisogna che cominci un po' ad affrontare. È tutto, la prima volta termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio Gianmarco Ferronato in regia. Potete riascoltarci in podcast e potete venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook. Tutte le indicazioni le trovate sul sito di Radio 24 oppure potete scrivermi all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli. Sadness in their eyes. Why are the soldiers here? Their faces fixed like stone. I can't see what it is that they despise. Dancing with the missing, they're dancing with the dead. They dance with the invisible ones. Anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands, they dance alone. We'll be right back. danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos, ellas danzan solas, danzan solas. It was the finishing. With her invisible son, dancing with the missing, dancing with the dead, dance with the invisible ones, the anguish is unsaid, dancing with.